L'Europa torna a parlare di immigrazione, torna a parlare di revisione dell'accordo di Dublino, quello che impone di effettuare la richiesta d'asilo nel paese di arrivo. È un pezzo del discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione, nel quale entrano anche l'idea di una sanità europea e di uno schema di salario minimo, un vasto programma sul quale è attesa una vasta discussione. Presumibilmente anche questa, almeno in Italia, sarà rimandata a dopo il voto, al quale mancano 3 giorni e sulla cui valenza solo locale tutti ormai sembrano allineati. È più questione per le partite interne al centrodestra e alla coalizione di governo. Nel frattempo nuovi dettagli emergono dall'inchiesta sui soldi della Lega e un collegamento con la Russia che a sua volta ricondurrebbe all'altra inchiesta che coinvolge il partito. Aspettare e vedere. Altri spunti. Il Piemonte torna ad aprire il fronte sulla pillola RU486, ipotizzando l'obbligo di ricovero per le donne che vi facciano ricorso. La Francia dibatte dei certificati di verginità che, a quanto pare, ancora esistono e sono previsti dall'ordinamento. Le star di Hollywood si lanciano in una campagna contro Facebook perché fa girare troppo odio. E Yannick Sinner, agli Open di Roma, dà grande prova di sé, sconfiggendo in 3-7 il numero 6 al mondo, Tsitsipas. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti e 15 secondi, è giovedì 17 settembre e ci siamo anche oggi. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e in redazione Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Siamo qua, siamo qua. Ieri abbiamo lanciato il grande contest, il grande concorso. Come spendereste i soldi del Recovery Fund? Anche oggi diteci la vostra. Qualche progetto concreto, finanziabile, con i soldi dell'Europa? Qualche idea vostra? Visto che nella lista dei 570 e passa progetti arrivati dai ministeri e delle amministrazioni pubbliche al governo c'è un po' di tutto, Dalla funivia per Roma a quella famosa cosa della quale abbiamo parlato ieri. Io non me ne capacito, scusate. Foreste resilienti urbane per il benessere dei cittadini. 2,5 miliardi. 2,5 miliardi. 349-238-6666, WhatsApp audio, le vostre voci con i vostri progetti per il Recovery Fund. E vediamo se... magari riusciamo a farci entrare qualcosa, riusciamo a dare qualche idea. Vi aspetto. Da cosa iniziare? Direi che potremo iniziare sentendo una voce di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Their stories also reveal a lot about the state of our world and the state of our union. They show the power of humanity and they expose to us the fragility all around us. Ursula von der Leyen, che come sentite in queste parole parla di Covid e dell'impatto che ha avuto, è l'argomento più generale ovviamente, poi è entrata nel dettaglio su singole cose. A partire dal tema dell'immigrazione e questa famosa revisione dell'accordo di Dublino. Cos'è l'accordo di Dublino? L'abbiamo raccontato tante volte. È quell'accordo che prevede che una persona che vuole richiedere asilo lo debba fare nel paese di primo approdo in Europa e che le procedure vengano espletate in questo paese. È un accordo per la cui modifica l'Italia si è battuta sempre e da tutte le parti, sia da destra sia da sinistra, perché essendo noi un paese di primo approdo per eccellenza, è chiaro che poi le persone si raccolgono qua, in attesa che venga vagliata la richiesta di asilo. Non lo so, esprimo la mia perplessità, ditemi anche voi come la vedete, perché questa storia della revisione dell'accordo di Dublino è veramente troppo che la sento. Forse questa è la volta buona, chissà. E sarà la volta buona anche per ragionare sulla redistribuzione, una redistribuzione effettiva dei profughi, dei richiedenti asilo, dei migranti nel resto d'Europa, come chiede l'Italia con la ministra Lamorgese, che nelle settimane scorse ha detto: beh, allora facciamo una bella cosa, pensiamo a far sì che i soldi del Recovery Fund non vadano a chi non accetta un meccanismo di redistribuzione obbligatoria. Ne arriveremo ad una oppure no? Cara Marianna Aprile, giornalista, autrice, lo ricordo sempre, del Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti, edizione PM. Cara Marianna, come stai? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Bentornata. Ne arriviamo a una, secondo te, questa volta sul tema dei migranti oppure no? Forse è la prima volta che c'è davvero la speranza di poter arrivare a qualcosa, per una serie di ragioni. Primo perché, dicevi bene tu, in questi anni ci si è lamentati molto, soprattutto in Italia e in Grecia, che sono i due paesi più colpiti dagli accordi di Dublino, dagli effetti degli accordi di Dublino, degli accordi medesimi, ma si è lottato sul campo molto poco e molto male per cambiarli, perché siamo noi e la Grecia, siamo stati due paesi piuttosto deboli politicamente in Europa in questi anni, e quindi di fatto avevamo un po' di armi spuntate. Adesso, complice forse anche, diciamo, l'esperimento Lesbo, no? Perché l'esperimento di Moria, delle misure prese dopo l'incendio di Moria, la redistribuzione dei 10 paesi volenterosi, tra cui non a caso la Germania, che se ne è presi 1.500 di profughi rimasti senza neanche la tenda di Moria, forse può essere propedeutico a una riorganizzazione in un momento in cui l'Europa forse ha deciso di fare l'Europa, perché il Recovery Fund e tutte le altre misure messe in campo per contrastare gli effetti della pandemia dimostrano, diciamo, per la prima volta forse una reale volontà di intervenire in quanto organo sovranazionale solidale. Questo aspetto è un altro aspetto della stessa emergenza, e non parlo del binomio pandemia-migranti che fa parte della propaganda quotidiana, sì. Ma dell'emergenza, diciamo, di coesione transnazionale in Europa. Il punto che diceva Lamorgese, che proponeva Lamorgese, la ministra Lamorgese, cioè non fa sì che non si benefici dei soldi del Recovery Fund se non si partecipa alla solidarietà, no? Perché il Recovery Fund è un fondo di solidarietà, sì, se vogliamo, per i paesi colpiti, quindi diciamo do ut dest, sii solidale anche tu. È una proposta, ma nella proposta che ancora, diciamolo, è in fase molto embrionale, sì, non c'è ancora un accordo di massima dei paesi su un testo, quindi diciamo è molto programmatico ancora, però contiene questa idea di von der Leyen un meccanismo premiale, sì, per chi prende che a volte che funziona, sì, dico, sì, parliamoci chiaro, ma Marianne, molti pezzi di teoria economica ci raccontano, e anche di pratica economica, che gli incentivi funzionano più dei disincentivi, esatto, in questi casi, soprattutto in casi come questi. Non dimentichiamoci che a firmare l'accordo per cui la redistribuzione smetteva di essere obbligatoria è sanzionata in caso di diniego, l'abbiamo firmato noi giugno 2018 col Conte 1, l'abbiamo accettato noi a quel primo consiglio, sì, europeo cui partecipò Giuseppe Conte. Quindi se già si parla di passare da una volontarietà a un'obbligatorietà premiata, secondo me le basi sono buone. Dopodiché bisogna vedere cosa faranno sì, i soliti cosa... paesi, perché c'è il esattamente diritto, perché noi, cioè... noi parliamo sempre, abbiamo un po' questo difetto di parlare dell'Europa senza, non ti offendere Marianna, e l'hai fatto anche tu, però è un tic linguistico che abbiamo un po' tutti, no? Di dire l'Europa finalmente si muove, il problema grosso sono i singoli paesi, non è l'Europa, perché l'istituzione comunitaria in sé no, sarebbe anche favorevole al cambiamento degli accordi di Dublino, a una redistribuzione dei migranti. Il problema è convincere i singoli paesi, cioè la dimensione. Però diciamo che per una volta sì. C'è un indirizzo europeo che farebbe pensare sì. Al quantomeno alla volontà di mettere in campo dei sistemi per convincerli quei paesi, che sì. Già insomma. Sì. Sarebbe un bel passo sì. In avanti. E voglio dire all'ascoltatore che ci scrive: ma se i migranti sono un peso perché qualcuno dovrebbe volerli, se invece sono una risorsa perché lasciarli agli altri? Le dico questo: metterla in termini così manichei secondo me è sbagliato e non ci aiuta, ma lo dico un po' a tutti, a chi si scalda molto su questi temi, non ci aiuta a ragionare su un tema che è vasto, complesso, ha una dimensione, una portata storica sulla quale forse bisogna riflettere un po' più profondamente. E condivido in parte lo scetticismo dell'ascoltatore che invece scrive e dice sono anni che diciamo che la volta buona con l'Europa e con gli altri stati su questo fronte, e questa volta buona alla fin fine non arriva mai. Chissà se forse l'epidemia di Covid cambierà, la pandemia di Covid cambierà anche questo, dice Davide Sassoli, il presidente del Parlamento europeo. Ora non dobbiamo fermarci. Abbiamo adesso bisogno di non fermarci, è il messaggio della presidente von der Leyen che raccogliamo volentieri, perché abbiamo bisogno soprattutto di riconciliare l'Europa alla vita concreta dei cittadini e alle loro difficoltà. Dice ancora Sassoli, bisogna rafforzare la casa comune. I nostri paesi dobbiamo aiutarli e nello stesso tempo, per poterlo fare, dobbiamo rafforzare le istituzioni europee. La casa comune. Ecco, credo che il messaggio che viene oggi è quello che la casa comune deve essere accogliente, deve prevedere e conservare i nostri valori, le nostre regole, il nostro stile di vita, e penso che tutto questo sia un patrimonio con cui affrontare il futuro. Intanto, a proposito di Recovery Fund, stanno arrivando i vostri messaggi, ma mandateceli anche in voce al 349-238-6666. Sono curioso. Un ascoltatore chiede di ristrutturare, finire al più presto i lavori di ristrutturazione della piscina Le Pleiadi di via Ungaretti a Moncalieri. Ci può stare, qualcuno ha presentato dei micro progetti, qualche pezzo dello Stato ha presentato dei micro progetti. Poi ci sono le bagatelle politiche interne, tutto il pre-elezioni. Ieri vi abbiamo dato conto di questo retroscena che c'era su Repubblica, patto segreto Conte Zingaretti, niente rimpasto. No, non c'è nessun patto segreto, dice oggi Zingaretti. Io con il presidente Conte ho un ottimo rapporto, però è totalmente falso che si sia fatto un patto segreto a due nelle ultime ore. Proprio non esiste il fatto. Le regionali, dice Zingaretti, hanno anche un valore politico. Si vota innanzitutto per le elezioni regionali, per i presidenti regionali, ma quando votano milioni di persone è anche ipocrita dire non conta niente sul terreno politico. Ci sarà una discussione da prendere, da valutare. Allora, Mariana, vabbè, ha esaurito l'argomento perché non ne possiamo più. Avrà un impatto sul governo, non avrà un impatto sul governo questo voto, diciamocelo. Avrà degli impatti alla fine che saranno interni ai due fronti, alla maggioranza e al centrodestra, con un prevedibile rafforzamento di Giorgia Meloni, dipende da come vanno le cose in Toscana naturalmente, da una parte, e dall'altra forse qualche scossone, sempre in dipendenza da quel che succede in Toscana, all'interno del PD. E poco altro. Sì, credo che avrà un impatto solo sulla nostra sopportazione, perché diciamo che grazie. Con un minimo di realismo sarebbe da pazzi, diciamo, brigare in maniera palese o occulta su un cambiamento serio all'interno del governo. fosse anche una poltrona, fosse anche quella della vittima sacrificata a Solina, ma qualunque cosa fai in questo momento al governo, lo fai al paese, quindi buono o cattivo, credo sì. Che persino l'opposizione si renda conto che debba essere questo al momento, il che significa che c'è un libero di tutti, cioè se non c'è lo scopo concreto di cambiare gli equilibri, di cambiare le poltrone, eccetera, si può fare l'ammuina quanto si vuole, far continuare il clima da campagna elettorale quanto si vuole, sostanzialmente spremando i nervi di elettori, lettori, telespettatori. E anche giornalisti, diciamolo, e anche giornalisti, diciamolo. Continueremo a raggomitolarci sui retroscena, sui mal di pancia, sulle lotte intestine nei vari partiti che ci sono, che sono sempre state, perché in questo momento potranno deflagrare in totale libertà non avendo un necessario sbocco concreto. Un pantanone molto effervescente che poi ci terrà occupati mentre deciderà come spendere i soldi delle loro esatto, che è la vera questione strategica. È la vera questione che dovrebbe monopolizzare esatto. I nostri giornali e telegiornali. È la vera questione strategica, il traffico. Tra l'altro di queste questioni di Dublino e non solo, degli accordi di Dublino, della politica dell'immigrazione europea, parleremo più avanti, partendo anche da un fatto di cronaca, perché poi ci sono le norme europee, ci sono i ragionamenti sull'Europa, però poi ci sono anche le norme italiane. Ci siamo occupati e torneremo ad occuparci della vicenda di Don Malgesini, lo sapete, il prete di Como, ucciso da una delle persone che assisteva, uno dei senza tetto. Il fatto è che questo senza tetto, di origine tunisina, era da anni in Italia, da anni aveva una serie di decreti di espulsione per lui, insomma, non sarebbe dovuto essere in questo paese. C'è un tema anche di funzionamento di queste norme, ci siamo soffermati spesso su questo punto. Così Salvini, L'immigrazione di massa poi ti porta a episodi tragici come quello di Como dell'altra mattina, dove un altro irregolare clandestino che doveva essere espulso ad aprile ma invece era in giro per Como ha accoltellato un povero parroco. Quindi io non ho tempo da perdere con l'odio, con la paura, con la rabbia e cerco di dare risposte concrete. C'è un problema storico e che non è che si è interrotto nel periodo nel quale Salvini faceva il ministro dell'interno e quindi vale per tutti, vale per tutte le amministrazioni di questo paese, che ha a che fare con il controllo del territorio e con le leggi che riguardano situazioni come quella dell'uomo che ha ucciso Don Malgesini. Su questo va fatta una riflessione profonda e possibilmente scevra da pregiudizi e questioni politiche. Perché problemi come questi i decreti di sicurezza non li hanno risolti, così come non li hanno risolti le norme volute da Minniti nel precedente governo. Restano là queste questioni. Vogliamo spostarci però sui temi più correlati a Covid e lo facciamo con Roberta Villa, che torna da noi, giornalista, divulgatrice scientifica. Ciao Roberta, buongiorno, eccoci. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, nelle scorse ore ha fatto un po' discutere anche in rete il fatto che la trasmissione presa diretta, ma non solamente la trasmissione presa diretta, sta un po' montando da tutte le parti, il ritorno della teoria secondo la quale il virus di Covid-19 sarebbe stato ingegnerizzato, ossia è un prodotto dell'uomo, partendo da un prodotto naturale, da un virus naturale, si è costruito un virus che è appunto Covid-19, che è quello che ha generato la pandemia. Sono state portate un po' di testimonianze, per esempio una trasmissione presa diretta dell'altro giorno, ce l'abbiamo, cosa possiamo far sentire? Il professor Petrovski, lo sentiamo? Non ce l'abbiamo pronto? Sì, eccolo. Da dove provengono queste caratteristiche del virus? Sono insorte in maniera naturale? o potrebbero essere state inserite? Non conosciamo la risposta. Le tecniche moderne per inserire o apportare modifiche ai geni non lasciano tracce. La verità è che non possiamo scientificamente affermare che questo virus sia stato creato dall'uomo, ma allo stesso modo non possiamo affermare il contrario. Dopo questa puntata, Roberta Hill ha fatto un bellissimo post sulla sua pagina Facebook per spiegare che ci sono un po' di buchi in queste teorie. Roberta, ci dai un'idea? Guarda, vorrei partire da un punto fondamentale, cioè un aspetto che è sempre rende un po' difficile la comunicazione della scienza, proprio la comprensione tra chi parla in termini scientifici e chi parla in altri linguaggi, e che è quello della probabilità e della certezza delle affermazioni. Per definizione la scienza può dire quello che vede, non può escludere quello che non vede, per cui qualunque scienziato serio non risponde è impossibile, risponde è molto improbabile. E questo chiaramente crea un dubbio nelle persone, ma siamo ben lontani dalla definizione del giornalista inglese Matthew Hinckley, che ha detto che le probabilità dell'una e dell'altra cosa sono 50-50. Assolutamente non è così. Per quanto riguarda, diciamo, la visione della la condivisione della maggior parte della comunità scientifica, le probabilità che questo virus sia creato in laboratorio sono veramente, veramente ridotte al minimo, e se ho un attimo poi ti spiego anche perché. Sì, spiegamelo, spiegamelo. Allora, il punto fondamentale che sappiamo da marzo è che è evidente che si è parlato tanto di queste firme. Quando vengono creati i virus in laboratorio per ragioni di studio, normalmente per ragioni di etica scientifica, per ragioni di per la possibilità di poterli ritrovare, di poter garantire la sicurezza, viene messa una sorta di firma genetica che dice questo virus l'ho fatto io. È evidente che chi fa questa cosa in maniera malevola, con delle cattive intenzioni, può anche non metterla questa firma, ma questo non è una cosa che abbiamo scoperto oggi, è evidente e implicita nel meccanismo. Il punto è un altro, che questo virus sappiamo da marzo che ha alcune parti, ma a parti fondamentali, tipo il punto del recettore con cui le famose punte spike si legano al non recettore, il punto che si lega al recettore umano, o la stessa struttura, il backbone del virus, non sono pezzi già disponibili o pezzi già previsti dai vari modelli. Sono completamente nuovi, e questo è abbastanza strano, nel senso che se io avessi voluto fare un virus in laboratorio potevo usare dei pezzi già disponibili. Andare a inventarmi un pezzo che è più efficiente di quelli disponibili in natura non è così semplice, è tutto molto complicato, è tutto molto contorto, è tutto molto, per questo, considerato improbabile. Qua qualche ascoltatore cita ancora una volta, perché ritornano a citarlo, il premio Nobel Luc Montagnier. Vogliamo dire, Roberta, che con tutto il rispetto per il momento nel quale Luc Montagnier ha preso il premio Nobel, è qualche anno che le dichiarazioni di Luc Montagnier possono sollevare più di qualche dubbio? Allora, questo è un altro problema, diciamo, di base della comunicazione della scienza e della comprensione della scienza e dell'atteggiamento con cui le persone devono ascoltare quello che sentono. Sicuramente la parola di un premio Nobel in linea generale può essere superiore, può valere più della mia se parla nel suo ambito, ma dobbiamo stare molto attenti a non cadere in quello che è il principio di autorità, cioè nella scienza quello che conta sono i fatti, i numeri. Il medico più oscuro, che ha dei dati molto solidi e li pubblica su una rivista scientifica dove vengono sottoposti al parere di altri colleghi e vengono dimostrati veri, e può annullare l'opinione di qualunque Nobel. Il professor Montagnier, sempre con tutto il rispetto per il lavoro che ha fatto su HIV, è evidente che da qualche anno ha probabilmente anche dei problemi legati all'età, o comunque il fatto di parlare di tutto lo porta spesso a dire delle cose su cui diciamo, non condivise dalla comunità scientifica, sì, internazionale, sì, e molto dubitabili. Dunque, il punto è questo, signori miei. Il consenso intorno, come scrive un ascoltatore, riassume bene, intorno alla naturalità del virus è enorme e c'è poco da fare. Se poi vi volete affidare a quel singolo studio, nemmeno troppo ben fondato e ben ponderato e ben fatto, che vi dice che in realtà il virus è creato in laboratorio, signori, più di questo noi, più che cercare di informarvi correttamente, non possiamo fare. Roberta Villa, grazie. Roberta, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. E grazie Marianna Aprile. Ciao Marianna, alla prossima. Grazie a voi, a presto. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.